addirittura le rotte di una radio vintage che la devo dare. Allora, questo è il passaggio numero uno, guarda, e questo è il passaggio numero due. Che differenza c'è? Perché questa c'ha 5 watt, che poi sono 8, 25 watt e quasi 40. Un avviso, Claudio. Io, tieni presente che ho i LED che si illuminano e non eri proprio a fondo scala, invece quando hai fatto il secondo passaggio sei andato a fondo scala, quindi se prima eri un 9 più 10, poi eri 9,40, capito? Da quasi 9 a 9 più 15 qua. Da quasi 9 a 9 più 15, questo è il Galaxy Saturn, ecco, sto mettendo a posto la potenza originale perché l'avevo tirata, che l'avevo vendere, quindi così 9 più 15 potenza massima, questa è la potenza massima e questa è la potenza minima, praticamente refrigain così è a zero e sono 5 watt, mentre invece così sono 25 watt, così è, va bene? Puntella Claudia, puntella, va benissimo così. Cosa, Carlo? Va bene così. Va bene così, quindi lascio stare con la potenza massima, la modulazione è buona? Sì, sì, perfetta, io ti sento benissimo qua. Claudio, allora guardando bene bene, diciamo più 9,10 che 9,15, quindi da quasi 9 a 9 più 10, al limite fischiando 9,15 al limite. Non riesco a regolare così perché c'ho uno strumento un po' precario, vabbè, ci vorrebbe quello strumento tuo per fare bene la taratura. K del Rogero, comunque così va bene, microfono normale, quindi penso insomma meglio di così non posso uscire questa radio, dai. Hai fatto Claudio, il tuo passaggio sei sceso a intorno ai 7 e 8 con picchi positivi a 9, la massima potenza sei 9,10. E allora già va bene, già va bene. C'ho questo strumento, non ce l'ho un cazzo. Puntella così, chiudi tutto. Va bene, dai, gli ho messo le regolazioni normali perché l'avevo tirato. Adesso gli ho messo le regolazioni normali. Ok, grazie Marco, grazie Carlo, grazie a tutti, grazie a Graziella e grazie a tutti. Eia, ciao Marco, ben sentito. Buonasera a tutti, Carlo, Daniele e tutti quelli sul canale, io ho ascoltato per caso e così ho voluto dare il contributo al segnale. Buonasera a tutti. Ciao Marco, buonasera. Ha parlato in due e è passato Carlo, sì, a te tu sei molto più in alto, praticamente otticamente ce l'avrai davanti, ok, ripeti Claudio. Ho fatto un'altra regolazione, che lo strumento sembra che stia segnando un po' meglio, vediamo un pochino, ora, vediamo un po' se così va bene, la modulazione mi interessa, non me ne frega niente, infatti. La modulazione è chiara? Sì, sì, qua è chiara, ha tolto tutto, NL, NB, io non ne uso più. E quindi sembra chiara qua, buona. Va bene, anche da te Carlo, siamo vicini, va bene? Sì, la voce è bella, è la tua, diciamo non la tua con l'altra radio, però insomma è buona, è buona. Va bene, puntella, bene va. Va bene qua, va bene, non tocca Jay. Ecco, ormai vengono a prenderci, ormai ci vedo più tanto per stare lì senza fare niente, lo spazio ad altre radio TF. Grazie a tutti, grazie Graziella e grazie a voi. Ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao Claudio. Ciao Dani, ci sentiamo, cambio. K di Rosmetro, io sono sempre qua io. E a me di mattonelli a punirli dritti, mi. Ah, sono in malattia adesso, qui devo cercare. Hai fatto bene, tanto di malati c'era un bel quel posto, non è più né meno, non se ne accorgono neanche. Io sono manicomio, eh. faccio un ricovero a Bamacchi, lascia perdere. Troia, lasciamo perdere, sì, per carità. Dai, riprendete ragazzi, scusate la mia intromissione, ma mi serviva questo controllo per questa radio, dai. Ci sentiamo, ciao. Ehi, ciao, buon proseguimento di serata. Riprendi Carlo. Ma ciao Cla, io mi devo un attimino spostare, lascio acceso, riprendo tra 5 minuti e ci sentiamo dopo Marco e Daniele, 5 minuti e poi rientro. Ehi, anche io ancora un altro po' e poi fino alle trasmissioni che devo andare a fare un po' di spesa, poi c'ho la libera uscita. Marco lì, ci sei? E io Daniele, tra un fornello e l'altro, dai. Ma cosa vuoi, stai cucinando? No, oggi roba banale, uova e piselli. Non è Mario, no? Non è Mario, no. Piselli quelli lunghi, mi. La pancetta? No, più leggeri, niente pancetta. Uova e piselli e boh. Cappa di rosmetro, bene, già è buono. Cava. Ascolta, ma qua sai, se ne trovano PL buoni, se per andare a Fusaro, la GBC ancora ne avrà. GBC addirittura, GBC. Guarda, io li sto prendendo da Mediaglobe. Oppure tipo quelli bacchelite, c'è bacchelite scura, poi c'è una via di mezzo, non so che tipo di materiale sia. Qua addirittura certi non avvitavano e ti dico anche il perché. Mi è capitato anche a me dalla Cina. Allora, dalla Cina, da AliExpress, vendono questi PL femmina, PL maschio, che sono fuori standard. Cioè, se tu compri maschio e femmina cinese, avvita. Se tu usi uno normale preso qua e vai a avvitare quello cinese, non avvita. È come se il passo fosse appena fuori standard. Insomma, ci ho buttato tutto in cassonetto, adesso lo prendo solo da fuori. Mediaglobe, Amradio Shop, che ne so, FLQ Elettronica, quelli i soliti grandi venditori. Però chiedo che sia roba non cinese, cioè proprio non. Se sono Amphenol meglio ancora, ma. Allora farò anche io così. Perché i miei invece avvitano, ve l'ho preso da Fusaro. Però ho notato come scaldano e cosa iniziano a dare i numeri all'otto. Adesso anche poco fa questo spettore mi stava dando problemi e non mi stava facendo uscire dalla radio. Allora, al tappo mi stava dando problemi lo spettore. Insomma, l'ho toccato sul riflesso. Come scalda? Cioè il contatto c'è o non c'è? Oddio, scaldando non so. Comunque l'altro giorno tu di modulazione uscivi. Io non so cosa intendevi Daniele, non sto uscendo. Di modulazione uscivi, però il segnale aveva fatto come un piccolo scarto. Esatto, fa questi scarti. Se tu stai attento con lo smitter quando dico che non esce. Perché c'ho lo smitter che si impala, ma proprio a zero di ricezione. E come lo tocchi appena che lo svitti, ma quel millimetro di giro, si riprende subito. Daniele, oddio, se le saldature sono fatte bene sul PL, io sto usando quelli che hanno la calza ad avvitare, non quelli a saldare di PL. Praticamente saldi centrale, prima avviti la calza, no? La avviti bella stretta, te la devi preparare prima, le lunghezze e tutto, e poi saldo il centrale. Quelli sono quelli che preferisco. Invece quelli con riduttore, tipo da RG8 RG213, con riduttore al 58 non li prendo più, mi dispiace, ma no, non mi vanno bene quelli. E poi ti ho detto, se puoi ordinala fuori, al limite ti fai con qualcuno, ti metti d'accordo se devono comprare baracchini, strumentazione, fate un ordine unico e ti risparmi anche le spese di spedizione. Esatto, sì, anche io ho quelli, qualcuno ne ho di quelli che sono i migliori alla fine, però gli altri stanno dando problemi, e sono tutti quelli che ho preso da Fusaro alla fine, poi li sto usando e iniziano gli dà una bella gli dà una bella riscaldata, già lo credo. Vabbè, che te devo dire, che c'è rimasto qua, dai, se no adesso mangiamo qua in casa, dico, poi si vedrà. Ehi, Amacoli, dai, vai a fare la cena. Adesso siamo rimasti noi due. Carlo mi sa che si è spostato. Poi non so, io mi sono assentato, non so più chi c'è rimasto. Vediamo se c'è quel cocomale di Natalino che gli dica una cosa. Natale! No, avrebbe risposto, forse impegnato. Va bene, non fa niente. Ui ui ui. Porca miseria, prima sono uscito con lo scooter e mi sono un po' sbilanciato con la spesa e non sapevo dove mettere le buste, quattro buste di roba. Allora, il bauletto l'ho chiuso a pressione, praticamente, e due bustoni l'ho dovuto mettere nella pedana. Insomma, che è roba che si tipe della stradale, con gli urbani. Io, dopo Natale stavi facendo? No, la, cosa, come dire, la Befana posso fare io al limite. So che, sai, sulla pedana in teoria non si dovrebbe mettere nulla perché ingombra alla guida, no? Devi tenere i piedi ai lati delle, del pianale. Ma scusa, allora le, quegli scooter che hanno il pianale pieno, cioè, cosa cambia? E infatti. È fatta apposta per quello, cavolo. Metti due buste e cose e ti fai la, insomma, la commissione veloce. Sì, c'avevo due sacchi gelo e due buste con cose assortite. Certo, fossi stato in macchina avrei fatto la spesa completa, però in moto mi risparmia un sacco di rotture, di un sacco di bestemmie per il parcheggio, perché qua è un po' delicata la cosa, Daniele. Caro, di quelli che se sfrutti la macchina, fateci la croce e non trovi più parcheggio. E certe volte devi girare o aspettare, cioè su, vado su e non vi ne, vado giù, non vi ne, qui non vi ne, cioè, non è che la devo mettere a un chilometro. Proviamo un po' di tutti, peggio di casa, gioia, lasciamo perdere. Qua come sposti la macchina, fai il giro del palazzo, non c'è più parcheggio, già preso. Lo stesso problema c'è la Natalino, lui è ancora più critico perché lì il corso Trinità è molto trafficato e lì è un incubo trovare posto lì, cioè lo devi mettere un, infatti, o tutta via Sorso oppure via San Francesco, cioè è un casino. Mamma mia, lì già è brutto veramente, come zona quello è un casino per il parcheggio. Bello che sia al centro, riesce, se già non te riesco a tutte le cose che ti servono, però la macchina è problematica. Sì, qui non ho problemi io. Mia lui, per usare la sassa a recuperare la mia macchina che è in officina. Ma vedi che stai andando? Ecco però, un amico che ha la mia macchina e l'ha parcheggiata. In officina? Sì, già. Caravagava. Come ti stai scendendo di nuovo sulla Budi Budi, che il segnale ti stai tornando a perdere? Dove sei? No. Alla questura. È più vicino a me, qua è 9, è oscillante. Anche a me, il segnale c'era, però c'è sempre la radio bassissima, cavolo. Poi il microfono, guarda. È una cosa allucinante. E da modificare, che me la capsula. Ma è un mic originale o è un preamplificato? 95 della ZG. Eppure Daniele, è un preamplificato, cioè se lo metti al massimo, sì, ce l'ho anch'io, non è amplificatissimo, però forse lì bisogna agire sulla, sul trimmerino della M, capito? Dagli all'apparato quello sprint in più. Capo, deve essere una cosa, che c'è un qualcosa che non mi quadra. Infatti stavo pensando, sto diventando sordo io, perché insomma, qua le cose non ritornano. Perché quella radio veramente in modulazione è bassa. Questo microfono non serve a niente. Aspetta, anche un secondo, mi sto filando il telefono. E questo microfono che non serve a fare buscicchi di sabò. oppure lo sai che noi lo utilizziamo sui 3009, va benissimo. C'era il Profeta su un apparecchio similare, c'ero io sul 3009. Naturalmente se tu lo metti su questo 3009 che è omologato, questo è il mic originale, premetto, se tu lo metti qua che il trimmer è chiuso perché è omologato, non pompa. Se tu lo metti a 3009 con il trimmer aperto, pompa molto. Comunque io a copiarti difficoltà non ne ho mai avuto, anche quando arrivi basso. Sì, la timbrica non sarà eccezionale, però il volume tuo di modulazione lo sento abbastanza. Avete parlato in due, chi è entrato avanti? Ehi, Marco, riguarda la modulazione, se è buona, che ho messo sempre amplificato. No, c'hai un brutto innesco, è forte, ma c'hai una specie di innesco rauco. Anche adesso? No, adesso no, ma sento un effetto vibrato, una specie di... l'altro amico in macchina. Sì, sono Cristian. Sì, non mi veniva il nome. Sì, Claudio, sento con effetto vibrato. Ma cosa c'è? Ventole o roba strana vicino? C'è il coso... come si chiama? L'elementatore. È a fianco dell'elementatore. La modulazione è buona? Si sente? Sì, adesso è sparito tutto. Innesco e effetto vibrato, non so cosa fosse. Sembrerebbe buona, sì. Sembrerebbe, posso aumentare ancora? Guarda, a vedere. Sente. Sì. Sì, sì, sì, ho capito che cos'è, va bene. Così, va bene, la lascio così, Marco. No. Sei al limite, allora riesci a togliere l'innesco, ma a questo livello si sente questa specie di... Allora, così c'è l'innesco, lo sento. Mentre se lo metto così, perché vuole il microfono preamplificato, lo sto facendo la connessione. Così va bene. No, sento appena una specie di frullio, un ronzio sotto, non so se Daniele lo copia. Ma Daniele, Cristian. Forse perché c'ho il microfono troppo vicino alla radio. Guarda se adesso va bene. Sì, sparito. Adesso va bene. Sì, ti ho anche attenuato per evitare eventuali vicinanza, no, troppa vicinanza. Ti ho attenuato, adesso è sparito tutto il rumore di fondo. Sembra che vada bene. Ok, quindi la connessione è questa. Mettiamolo così, per un po', togliendo il tono. Va bene lo stesso così. Così è perfetto, Clara. Lascialo così. Ok, allora lasciamo stare così, dai. Di nuovo mille grazie. Così glielo do anche questo microfono, tanto me ne posso nutrire. È buona la modulazione, Marco? Amplificata? Sì, amplificata. Io, forse per me, forse gli avrei dato appena meno watt. Poco, per migliorare ulteriormente la modulazione. Ma magari sto esagerando io, boh. Tu basta me lo dici, se lo fare io lo faccio. Allora, infatti adesso lo fai, erano 8, adesso sono 5 watt. Guarda se va meglio. A me sembra più aperta così, più aperta. Puoi fare una via di mezzo, però 5 cifra tonda mi sa che è la cosa migliore. Poi se lo vogliono aumentare loro, affari loro. Tu l'importante è che quando lo dai esca con la migliore modulazione possibile. Guarda, questa è la migliore modulazione possibile, perché guarda, questa è la potenza minima, guarda, dimmi se cambia qualcosa, e questa è la potenza massima. È cambiato qualcosa? Orecchiometro, non mi so basare. Vabbè, però guarda il segnale, perché è importante che la potenza sia giusta, perché non c'è un wattmetro. Mi sto basando sullo strumento della radio. Allora guarda, questa è la potenza alta della radio. Potenza alta, potenza bassa. Noti qualcosa? Sì, a voglia. Massimi, ciao, buonasera, ben ascoltato. Tu che sei lontano, quindi questa è la potenza bassa massima della radio e questa è la potenza alta. Tutto lo che fa la manetta, la noti la differenza? Sì, il segnale solo, la radio rimane invariata. Buonasera a tutti. 95 e 910. Sì, bella radio per rimane invariata, se no che cagate. Va bene, va bene, va bene. La radio non mi ha messo le cuffie, non penso che già vada bene, beh. Ciao Massimi, tutto bene? Non c'hai quel coso? Niente, claro, zero completamente, vi sento una favola. Quello lo sai, sì, perché è aumentata la temperatura e il discorso è sempre quello là. Va bene, speriamo bene. Ok, allora lo chiudo questo microfono, la connessione è questa allora, eh? Meglio, potresti anche abbassarlo leggermente di Mickey Green. Allora, ce l'ho a 5, mettiamolo a 4, vediamo un po', così va meglio? Sì, a 4 è più bella, Claudia. Ok, tu che sei distante va bene. Allora, se a 4 va bene, lo lasciamo stare così. Ottimo, per la truppa, bim bum bam. Avanti Marco per salutare Massi. Ciao Massimiliano, ben sentito e ben entrato dopo tanto, che non ti sentivo da un bel tempo. Dai, c'è anche Cristian e Daniele, ci dovrebbe essere ancora. Fate girare che mi si brucia la roba, un attimino, arrivo subito. Vai. Ciao Massimiliano, se mi senti. Chi è? Io non lo conosco questo Cristian, Daniele, non so se Radio Spillo, boh. Radio Riserva. Cristian è fratello di Antonio Riserva, Massimiliano. Ah ok, perché io sono nuovo e li frequento, quindi non è che lo conosco bene, capito? Mi riconosco così, giusto qualcheduno, ma... Ah vero, e chi è? Ciao Daniele. Buonasera Massi, di nuovo ben sentito. Cosa Daniele, scusa? Ha detto buonasera e ben risentito. Ciao Daniele, purtroppo sto entrando proprio poco, saluto anche a Marco, a Cristian comunque e tutti quelli che stanno ascoltando, sto entrando un po' poco perché c'ho un disturbo da paura, capito? Santiago 7-8 e quando ci parla la gente se lo portano dietro non mi fa ascoltare bene, quindi non sto entrando per questo motivo qua. Là. Ok, allora rilancio Cristian, vai Cristian. Ti ascolto, dai, sicuramente c'è MBM, ti ascolto Radio 4, Santiago 3-4 oscillante. Guarda amico, sono da Usilo, recupero un amico che ha la mia macchina in officina, è rottura di scatole pure. Salutami a Usilo quando sali allora. Guarda, sono già su Cucutolo quasi. Su Cucutolo alla montagna si è arrivato. Sì. Daniele, quanto stiamo da Torremanno? Sì, da Torremanno, ufficiata, da Torremanno in officina. Va bene? Io ci conosciamo, mi ha fatto un sacco di lavori a me, non c'è problema. KK, va bene, dai. Ok, allora, lascio tutto così qua, va bene, così invece è troppo amplificata. Quindi la mettiamo a 4 e puntelliamo, va bene. Bravo, è benissimo, lascio così, è perfetta. Ehi, va bene, dai. Non c'è problema, se sentite qualche rumore è perché appunto sono le ventole attaccate. Va bene? Gala, c'è questo Claudio. Ehi, Massimiliano, dimmi. Ho detto, cos'è il Galaxy? Il Galaxy Saturnetto con l'MBP5. Beh, bella radio, ciao. Anche io, Galaxy Saturnetto e l'MB+3. Ma l'MB+3, il Turner+3B. Va bene, ok. Ottima radio, tra. E poi a distanza, così, per non dare KK, va bene, dai, cosa c'è qua inserito? Allora la sento cacchiare, anche tu? Appena, che si è alzato, vabbè. La sento cacchiare, Massimiliano, non so se il microfono, vediamo un pochino, così. Allora, questo è così, forse il microfono, mettiamolo a 1. Forse non gracchia così sta gracchiando Massimiliano. È un bel forte, ascolta, il Mickey King della radio a maletta ce l'hai. Mickey King della radio a radio? Ah, ecco, adesso non sta craccando più, lo senti? Sì, adesso va bene, Claudia. Perché c'era un disaccordo allucinante qua, porca miseria. Non c'ho strumento per la 27, capito? Ah, ecco qua, guarda, in questo momento che si è agganciato quel rumore qua. Si è agganciato di nuovo quel rumore là, porca miseria. Sì, proprio in questo momento, guarda, Santiago 8 che sta arrivando il tuo rumore. Perché a quest'ora si mettono a attaccare, te l'ho detto, un inverter, Massimiliano, dove lui deve andare, quello è un inverter, non c'è niente da fare. Cosa vuoi ti dica? Va bene, dai, ragazzi, io vi lascio. La chiacchieratina me l'ho fatta, dai, ok? Con questo rumore non fa più a modulare. Dai, vi saluto tutti cordialmente, dai, ciao. Ciao Massimi, ciao, alle prossime. Saluto a casa, ci sentiamo. Quindi Massimiliano, mi confermi che lo crepo, sì, mi confermi quello. Io lo credo, sei più grosso di me, quindi per forza se mi passi sopra mi schiacci. Buonasera, sono entrato a gamba tesa. Ciao Tino, un abbraccio, e io credo, solo se ti appoggi mi schiacci. Allora, sto bene. Ehi, ciao Massimiliano, ma io intendevo quello infatti. Cosa dico? Ho detto, io intendevo quello. Allora, il peso vuol dire molto, caspita. Poi non parliamo se ti appoggia Daniele, perché se ti appoggia Daniele allora non rimangono solo le ossa. Allora, oia. Mi stavo regolando questo Galaxy che è un secolo che non lo accendevo, pensavo non funzionasse più. E invece già sta andando, dai. Sembra che vada, no? A bomba, va bene. Cristian, dove sei arrivato? Prova a vedere quando arrivi. Ehi, sei davanti a me, io ti vedo. Oggi lo vedo, tutta bella illuminata, KK. E allora, ti come ti senti, meglio? Sì, a voglia, grazie a Dio. Tutto K. Quei giorni lì che era un po' abbattuto, febbre altissima, però grazie a Dio ho solo una brutta influenza. Rimettiti perché appena arriva il padrino dobbiamo fare segnali di fumo. Sarà fatto. Stiamo organizzando, carissimo. Lo sai, no? Ne avevamo già parlato. Poca roba, veloce, però segnali di fumo dobbiamo farli. Sì, però devi andare a caricare il frigo prima. Infatti andiamo a caricarlo, ci mettiamo d'accordo. Un giorno prima carichiamo tutto, tanto facciamo carne. Capito? Quella che piace a noi. Roba veloce, non devi stare chi vi a seguire niente. Noi gli e vamo sulla playa. Andabex. Chi c'è a ruota? Anche Daniele. È entrato, è sparito, non so. No, io ho sentito la Cristian, ma in lontananza, dov'è? A Ugiro, sta andando in officina da Torremanno. No, Cristian, mi ascolti? Prima non lo senti a Dino. Lo senti basso, eppure è alto e grosso lui. Vabbè, io adesso non posso, però se in quelle zone facciamo una prova, dai, che metto a scaldare quella là. Io metto a scaldare le fave, che ce le mangiamo subito. Io non lo sento per niente adesso, sta parlando. No, è zitto, si è fermato in officina. Metti a scaldare quello là, vediamo un po' come va. Sì, vabbè, adesso è freddo, Fallo scaldare, dare il tempo, no? Infatti, la radio molto cambia da quella a quest'altra. No, lasciamo stare così, già va bene. Aspetta che lo facciamo scaldare. È freddo, ecco. Ciao, Chris. È freddo ancora. Ascolto anche io, Siamo appena 250, lascio scaldare un attimino, così vediamo il controllo in quelle coordinate. Poetino! Andale, buona! Buonasera a tutti! Antonio, aspettate un attimino che accordo, Non mi sono ancora già. sottofondo di mia moglie quando spostare le sedie. Tanto come ti arrivo lì col Galaxy? Segnale radio, va bene. Ah, c'è la fondo scala, sì, o... Non ve ne è più, c'è 9.30, anche Trino è fortissimo, ma cazzo è un fendiga. Aspetta che c'è ancora, finito. Però mi devi dare due secondi, per andare. Vabbè, devo scaldare un pochino ancora, non siamo neanche a 500. No, va a forte, va a forte. Ma chi c'era, ragazzi? Non ho sentito chi c'era. Sì, c'è anche io, su Cucuzzo della Montagna. E avanti, chi è? Crista, su Cucuzzo della Montagna. Allora, Crista, guarda adesso, aiuto. L'hanno controllo radio. E se deve andare a bomba adesso. Ma come segnale com'è? Puoi darlo? Sì, se 9.30, radio 5. Addirittura. Se la uso su questa volta che vedo il mare da qui di ieri, la usilo. Ma io ti ricevo un Santiago 7 qua, per quello dico addirittura, facciamo un 9. No, dai, sono la latina piccolina, dai, un attimino di bianco, dai. C'era un altro, se non sbaglio, sotto, l'hai sentito? Sì, ho percepito qualcosa, vediamo un po'. Chi è che vuole entrare sui canali 10? Non lo saccio chi è. Non lo saccio. C'è una radio qua, questo 5.5, è fatta paura. Funziona bene? Grazie. Io infatti... per me rimane sempre la miglior radio, il miglior baracchino, diciamo, per come è fatto, per come esce. Io ho il Tane più 3, ho l'MB più 4, l'MB più 5, ma con tutti va benissimo, con tutti. Sì, però mi devi cercare un più 3, alla prova sempre. Un più 3 si può anche trovare, non ce n'è problema. Non ce n'è problema, tanto abbiamo le chiavi del magazzino, capito? Te l'ho letto, l'altro giorno te l'ho sceglitene uno, il più nuovo e prenditelo, tu hai detto no, adesso no. No, perché la scelta è dura. E lo vogliamo a Linga, vedi che gli altri lo buttiamo un microfono. Aspetta, è riparazione del 575H, visto che a botta redda a biglia, sono i finali bruciati di quella radio. Cristian, come va ora? Guarda, adesso sta il culo, ma non ha accordato di come sera. Credo che ora sia al boom della sua efficienza, eh? Guarda un po' qua. Così è il suo massimo segnale. 9 più 30 pieno, sì. 9 più 30 pieno. Quando sei non al massimo, sei 28, 27. Così sei 30 pieno. Ma non sai quanto mi segna qua alla Rosna Trovato, insomma? Minimo 700, 800, boh, non lo so. Però sei 9 più... Tu considera che qua lì ci arrivi 9 più 10, Quindi arrivare 9 più 30 è un bel minimo. Sono 20 di B, è tantissimo. Tanto. Pure a me così. Non so se c'è Cristo, ma dice, vabbè, ci ha detto già 9.30 perché oltre non va, credo. Cos'ha, LED o Smith? Cristo, ci sì. Non so che baracchino c'è. Non lo so. Sì, un bel forte comunque qua. Antonio è una bottezza da lì, vabbè, è sotto di me. È giù via Milano, quindi quella zona io la prendo in pieno. Io parlo tutti a Campagnolo, quindi, però già non era 7.50, adesso è sceso intorno ai 600. Quello che dobbiamo fare è quella cosa là. No, io sto andando con la massima potenza del Galaxy, niente di che. Però già i suoi 30 watt già li tira fuori modulati. Va bene. E lì il segnale che da te è buono, metti. Sì, non vi dici, ma parlo dell'HR525, sono dall'altro 6915 con picchia 920. Ehi, vabbè, per essere antenna a 2 metri da terra è più che sufficiente. Adesso quest'estate mi hanno convinto, facciamo bene i lavori e la mantova la metto sopra il quel sistema che avevo prima, dai. Cosa vuoi fare? Il traliccio monto 20 metri e metto la mantova sopra il traliccio. Davvero? Allora sotto le metto le direttive, sto già preparando tutto e la mantova, anziché mettere la 510, la lascio dove e sopra il traliccio metto la mantova. E praticamente allora i conti cambiano. Sassari mi arrivate tutti fortissimi e va bene, però fuori Sassari va ammazzato tutti. C'ho dei segnali allucinanti, mi arriva anche l'androma, cosa che prima non sentivo neanche la carbonazzi. Va bene, però voglio migliorare un po' entro Sassari, vediamo se ci riesco. Prova. Niente. E già costa sì, ci vuole l'autoscala, ci vuole un sacco di lavoro per fare queste cose, non è che l'attacchi il cuscino. Il cacarola, l'autoscala, che ti dico, c'è un motto di goccia, cioè, ma non ce le porti su con la cosa, con qualche altro metodo? No, perché la devi, cavella non ne faccio io, capito? Tutto telescopico, però per puntarla sopra è meglio l'autoscala. Ce l'abbiamo tutto noi abbiamo tutto, non ci manca niente, vero? Ti la vuoi fare, molte volte ci manca. Aspetta che provo un'altra radio. Ehi, kappa. Ehi, autoscala. Comunque adesso non so, tu magari qualche amico tuo, non so, però l'ho chiesto io una volta e non lì hanno sotto di canto di cauzione, c'è un raggio, roba di 3-4 mila euro di cauzione ci volevano. Ah, aspetta, dite, ma fa un travaglio. Claudio. Ehi, Andy. Guarda questo segnale qua, se ha cambiato qualcosa da quello che avevo prima. Questo è il tuo, 9+10. Aspetta, se così invece ha cambiato qualcosa, 1, 2, 3, prova. Questo è 9+20. La radio com'è? In saturazione? No, va bene. E così invece senza niente, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è il passaggio 1 e questo è il passaggio 2, 1, 2, 3, 4. Sì, vai da 8 a 9+10. Da 8 a 9+10, va bene, questo è il 750, però, poi un altro che però lo può collegare, posso collegare invece, non era collegare, va, non lo voglio adesso, questo è quello che mi ha portato Fabrizio che è collaborato. Funziona, certo, da 8 a 9+10, no, altro è l'impresario che ha costruito qua praticamente, ha già portato il materiale per fare un piazzale, capito? Deve venire con la terna, faccio mettere sopra il braccio, sopra dentro il coso della terna, faccio tirare su e salgo. Aspetta che su coso di sicuro. E allora, io già vi faccio la tenuta, anzi mi sicuro sì. Guarda. Oh ragazzi, riprendo io sotto l'intrusione che c'è le trasmissioni, dai, per adesso. ci ascoltiamo alle prossimine, buon proseguimento e salutoni circolari a tutti. Ma se quando ti chiamano non rispondi? Perché ha avuto una bassa e stavate parlando, non ho avuto modo di avvisarvi. E non la potete alzare. Bravo, ciao Daniele, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Daniele. Ciao Daniele, alle prossimine, ci sentiamo, ciao. Aveva fatto i funghi sul gozzo, piano piano. Ma va, c'è tanto di ragazzo. No, già salgo io, ma ci sto per ancorare, niente di che, poi già si piazza tutto la terra, eh. Già noi la prima volta facciamo queste cose. Oh, Fra, guarda un attimino se vai in distorsione, guarda, sto alzando un pochino di basso. Ho fatto appena appena il watt, guarda il segnale e la radio soprattutto, eh. Appena appena ti te la mangia, ma non molto, però appena appena te la mangia. No, allora aspetta. Così invece era come la prima, credo. Sì, lasciala così, tanto il segnale non è che cambia molto. Lasciala così. Oh, sì. Indicazione, wiki, eccolo qua. Provo a vedere, ora. Va bene così, non c'è problema. Ottimo per la truppa. Questo è il Lincoln, Il Lincoln è accoppiata con il ZG 550 però. Ah, va bene, ottimo, quanti watt era? Dovrebbe darne 300 buoni, 400, non so, adesso non mi ricordo il 550, non penso che le dia 500, forse 550 in SSB. Sì, una cosa del genere dovrebbe essere. Vabbè, dai. Vabbè, signori, dai, devo lasciare che c'è Nicolas che deve fare cosa qua, non sente bene neanche lui, quindi devo dargli un po' di assistenza. Vi saluto, dai, nel caso se coincide a più tardi, se no ritenetevi salutati, dai, ciao. Sì, ci sentiamo. Una cosa, come ti arrivo lì in campagna lì? Qua sì, ho sentito sette altro, qua in campagna, ma ti parlo del presidente, o l'altro devo verificare. Sì, così. Sì, sì. Già va bene, dai. Sono un bel lontano, io va bene. Si ha due passi. Ottimo per la truppa, va bene. Aspetta un attimino, prova con questo. Antonio. Dimmi Tino. Infatti. Allora, prova con questo che ti guardo un attimino, che quello là è forse un po' troppo tirchio. 9-10 con la IF. Se tolgo la IF sei un po' più basso, Ma sono molto più lontano però. Ah, io ti arrivo meglio adesso. Sì. Adesso il segnale preciso quanto è così, in questa posizione, con la massima potenza della radio. 19 spaccati con appena qualche puntina sul 20 anche. Ottimo, ottimo, va bene, alla grande. Conta che siamo lontani noi qua. Domenica. Sì, io e lui siamo lontani, non siamo anti lui schioppo, andiamo bene. Va bene, ti dai, fai quello che devi fare, tu Antonio intanto fra un po' esci, io già sono qua in ascolto, ok? Va bene, ciao, più tardi se coincide. Capo a tutti e due, a dopo, ciao. ancora 10, c'è qualcuno? Cocodè! Chi è questo gatto? Cocodè, sono il parente del tuo pappagallo. Ciao Marco. Ciao già, Baramobile, movimento per fare un test. Dove ti trovi Marco? Bretella. La Bretella? Ehi, ci dovrebbe essere anche Natalino. Prova, bene. Aspetta già, che è una zona intensa di traffico questa, non posso modulare. No, per 25 è Radio 5 qua. Per quello dicevo che è la radio strana. Non c'è Marco perché sta facendo il 5. Dove sta? Ma strana brutta, vabbè, questo è un altro apparato, già. No, strana brutta, strana diversa dal solito, capito? Era, c'era un sacco di gente prima, il tempo di montare l'apparecchio per fare una prova, tutti spariti. Davvero? Io, vabbè, non fui, sono tornato adesso, capito? Non ho sentito nessuno. Natalino? Natalino sta mangiando. Dove stai andando, Ginello? Da Bricomen. Uh-huh. A fare compere? No, a guardare, almeno è gratis. Forse due cosette devo guardare. Va. È sempre pieno di gente, di un casino. Ascolta, beh, l'altro pappagallo è in arrivo già. Ti è già arrivato pure. E poi come risolvi? Lo rivendi, cosa fai? Non lo so, ma ancora adesso vedo. Se trovo la vedo, non vedo, se non lo vedo, non c'è problema. È in arrivo, la fine arriva. Eia, naturalmente in gabbie diverse, no? Sennò si azzuffano i due maschi. Non penso. C'è un'altra gabbia, ma li vorrei mettere tutti insieme qui. Perché c'è anche le calopsite, capito? Quelle che hanno la cresta, che sono della famiglia di Cacatua, per esempio. Che hanno 5 figli, quindi una gabbia la dovrei usare per i figli. Eia, mamma mia, quanto non mi fido io. Ah, io vado tranquillo quando voglio. Vabbè, il mio microfono è molto forte, quindi lo metto sulla gamba e parlo così tranquillamente, mi sento. Ma il tuo amplificato, questo è normale? No, è normale, mio, non è amplificato. È l'apparecchio che dà la potenza. Una parte la faccio dire con l'apparecchio perché c'ha tipo un processore, si chiama Top Gun. Il Top Gun Modulator? No. Per carità, il QRM che prendono questi apparecchi moderni, non te ne dico, come vecchi lampioni, una friggitrice, terrificante qua. E poi manderà a semaforo. E comunque a Marco anche la lampadina corrigliava, beveva colpi, tutti di più, solo che macchina va bene perché si lontana, quando viaggi non ti rompe le scatole nessuno. Ehi, anche quello è vero, aspetta che devo stare al limite. No, sai cos'è, su questo apparecchio Vox non ce n'è, io ne ho due che hanno il Vox. Cioè io addirittura potrei guidare col microfonino attaccato al palo della caccia a mani libere, capito? Con gli altri però. Vabbè, ma la microfonina com'è ci dirà? Ottima. La modulazione è metto presenza, normale, buono, come tutti gli apparati. Con la capsula condensatore. Come anche 2009, io penso che il microfono normale abbia qualcosa, abbia un compressore, qualcosa, perché esce bene e poi è pesante. Guarda questo col faro alto, tenescano gli occhi, tenescano. Che non c'ha più tutti di cuore, ma come se lo so da casa, sono vieta attraverso. Ehi, vabbè, qua non tutti in fretta, io li lascio andare avanti. Andate, fatemi da battistrada con la stradale, già beccano voi. Perché la stradale? No, così dico in generale, no, siccome non tutti in fretta. Io fretta non ne ho, anzi sto facendo il giro largo pure. Poco fa ho beccato la pattuglia che si stavano riposando in Mosca. Sì, da lì come dovresti uscire bene, proprio, perfetto, perché ci vede tutta sassa. Esatto, no, adesso vabbè, sto facendo il giro largo, è una prova. Perché io, da Bricco, avevo visto tutti i paesi, tutta sassa che si vede, se avessi l'antenna lì qua. Come ne è un posto di perdizione. Dove si spendono molti soldi, ciao caro. Ciao Gianni, ciao Marco. Sì, se non stai attento lì ti scappa il portafoglio e anche la carta di credito. infatti io prima ci andavo di più, adesso un pochettino mi sono dato una calmata. Oh, ma l'avete sentito a proposito del caffè di Cristo che vogliono tenere in banco? Ormai anche per i piccoli pagamenti ho visto che accettano senza problemi le carte, anche stasera sono andato a prendere delle cose, diciamo dei riduttori di corrente, capito? 3 euro, gli ho dato 10 euro, dice non c'ho cambio, e allora te lo pago, sì va benissimo la, il bancomat, ho visto che non fanno problemi, quindi alla fine anche io l'ho letto, non ci credo, perché comunque un po' di contanti la gente li toglierà sempre, capito? Beh, c'è bene il corriere, quindi apportate un pacco, come lo fai? Se c'hai la consegna, così, quando paghi alla consegna, con cosa fai? A meno che loro abbiano pure tipo io che ancora ho figli minorenni che ti chiedono i soldini, capito? Non è che gli do il bancomat, no? E tu daglielo, così te lo svuotano bene. Lascia perdere Natali. Ma te la consiglio. Stanno facendo la spesa, già si svuota bene. Benzina diminuendo sta di prezzo. Poi io caro sono andato che non metto benzina, da quando c'è stato un momento io non ne ho messo. Io vado a gas, per cui la benzina la metto brutto di rado. Io metto il diesel e benzina perché io uso la macchina diesel e mia moglie c'è la benzina, però anche a mia moglie gli avevo fatto il pieno che era a 2,05 euro la benzina, e io lo stesso il gasolio quando l'avevo fatto il pieno era poco più di 2 euro, capito? Adesso non so come sia. No, qualcosa ha diminuito, qualcosa sì, va a poca roba. Noccioline, insomma, non ho dato le caramelle per non fare più lo sciopero, capito? Ma gli autisti non sono soddisfatti, dice no, questo qui sono una caramella. Non è che abbiano risolto il problema diminuendolo di 25 centesimi. Una certa cosa. Cosa, Marco? Sì, no, ma dicevo di perché c'è... Adesso vediamo come va i prossimi giorni. Io domani mattina devo uscire presto, però un po' ce l'ho ancora. Quando rientro faccio benzina e vedo un po' com'è lì allo Shan, che costa sempre di meno. E c'è la fila sempre lì, c'è la fila lunga chilometrica. L'altro giorno per noi non era così, c'era una fila che non finiva. E lì va sempre un amico mio perché dice che costa di meno, capito? Io più di una volta l'ho messa lì, solo che non c'era fila. Adesso, a meno che non sia aperto presto, quando passo io alle 4, magari a quell'ora di fila già non ce n'è. C'è una fila, sono passato, sono andato, che adesso vanno facendo con questa storia degli aumenti, e aumenta benzina, e aumenta roba alimentare, ui, già finiamo bene. Tutto sta aumentando, tutto, la pasta, la passata di pomodoro, anche quella prodotta in Sardegna, Casare, eccetera, no, costava 1,10, adesso 1,40, è proprio, secondo me, speculazione comunque quella. State attenti quando comprate la pasta, perché esce il periodo degli animali. Meno male la mia compagna ha controllato, ha trovato gli animali nella pasta, li ho riportati lì. Non sfuggerò, mancato bianco si vede. Vai, ma da me sei 8. Che da me 8. Vabbè, vai avanti, Marco, andiamo lui. Ho capito, ma io quasi tutti i giorni vado a lavoro e quindi quell'ottantina di chilometri e fruscia li faccio. Salino, ci sei ancora? Eia, sono qua che stavo mandando il cane a fare la pipì giù, capito? Dopo già se ne sale da solo. Salino, senti Marco? No, negativo, ma è colpa dell'antenna mia che è troppo bassa, dai. Tu lo senti? Sì, perché ti stava chiedendo controllo, Marco, non ti sente Natalino, è per quello che non te lo può dare il controllo. Sì, esatto, perché Natalino, lui ti sente bene comunque. Lo so, ma io non lo sento perché ho problemi di QRM forte Non lo sento proprio per quel motivo lì. Quando mi alzo l'antenna già sentirò a tutti, è troppo bassa la mia antenna, capito? Se piazza la fa correre, non esce per niente l'antenna. Infatti, ma poi la piazzo anche più in alto e tutto, e sentirò i segnali più forti. C'ho il cavo buono anche da piazzare oltre l'antenna, devo piazzare 3-4 antenne. 4 antenne, addirittura? E anche in curva. Devo piazzare una collineare, poi devo piazzare la Game Master, quella che ho costruito io, e più un dipolo devo piazzare. Mi servono due pezzi di tubo da 40 mm perché devo fare le cariche per accorciarla, no? Se no è troppo lungo il dipolo. Vai! Da me c'è sempre uno. Ma anche da me, Marco. Modulati, sei 8 e mezzo. Anche da me ti ho detto sei sempre 8, però quando parli adesso va più in alto. Cosa hai fatto? Ce lo puoi spiegare? Questa qua, quando parli, da picchi positivi, quando vuoi. E l'altra invece no, è fermo. Questo qua da picchi positivi a 8 e mezzo, non arriva manca a 9. No, quella di Franco California è tutta l'antenna caricata, è poco a forte, perché a Sassari è arrivato con 2.5, eravamo a Isimano, e la cosa, a Fiumessato Pescara, mi ha provato, non 2.5, quindi poco, va bene, infatti mi sto facendo una forte, perché quella lì era come una macchina mia, va bene a metterla nel posto dell'antenna della Vari, va bene. Così non vi penso più, ma hai già visto la città, cosa qui? Prendo e vi saluto perché mi chiamano e c'è la cena che incombe. Ciao Marco, ci sentiamo già, magari se ci siete più tardi o magari accendo e rientro un altro po' più tardi. Ciao Carlo. Dove sei Marco? S7. Hai sentito? S7. Con chi stai parlando? Ciao Carlo, ci sentiamo, ciao a te, Claudio. Siamo io, Claudio, qua io, tu, Natalino, e c'era Carlo che stava a cena, buona carica Carlo, ci sentiamo dopo se ti coincide, dai. Avanti. Ma sei agganciato? Cosa? Sei agganciato? Claudio, passa appena che è troppo forte. Cosa troppo io? Ma mi ha amplificata? Sì, ma non ho capito chi è al limite. Cosa volete dire al limite? Di che cosa? Sto troppo amplificata addirittura. Adesso l'ho abbassata, va bene così. Va bene così. Là, così va meglio. Pronto? Mi sentite? Ehi, a Claudio, sì, ti sentiamo. Non ti potevo rispondere, stavo facendo dopo. Sì, così ha migliorato. Con qua stava quasi strappando. Non ti capivo cosa dicevo. Adesso va meglio, anche è bella forte, ma non strappa. Va bene. Galaxy, Galaxy, non c'è niente da fare. Claudio, l'hai copiata a me. No, l'ho copiata a me, tu. Cosa, già? A Marco lo copi, Claudio. Io lo copio. No, perché se a te sono copiato. Mi sono allontanato, dimmi Marco. S5. E l'altra che stai usando invece qual è? Non so, però avvicinata era così. Io ti ho detto com'era. Ma infatti controlli se per lontananza fate, se dovete provare le antenne, perché la vicino è un casino. Fai con una 7 e con l'altra 5, Marco. Adesso va bene la radio già, l'ho regolata così. Sì, già va bene.